giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Investimento mortale sui binari, un uomo travolto e ucciso da un treno. L'incidente in serata vicino a un passaggio a livello nei pressi di Campoformido. Circolazione ferroviaria ferma per ore sulla linea Udine-Venezia. Visentini attende a Bruxelles le decisioni dei giudici. Il nome del sindacalista è tra quelli emersi nell'inchiesta sulla corruzione Qatar-Eurocamera. In arresto la vicepresidente dell'Assemblea. 10.000 i volontari della Protezione Civile regionale, spina dorsale di un sistema divenuto modello per l'Italia. Oggi la loro festa. L'influenza australiana, il Friuli Venezia Giulia è fra le più colpite. Secondo i medici di famiglia è opportuno vaccinarsi. Calcio, Udinese sconfitta per 3-1 in amichevole dagli inglesi del West Ham. Oggi in campo la Serie C con lo scontro al vertice tra Pordenone e Vicenza, mentre la Triestina giocherà a Seregno con il San Giuliano. Nel basket, impegni casalinghi per Trieste e Udine in trasferta per Cividale. Le 8:31 minuti, buongiorno e buona domenica da Giorgio Bearz e Dario Ronzoni per questa prima edizione del giornale radio dell'11 di dicembre. Prima di cominciare con le notizie, come sempre, diamo però uno sguardo alla situazione del meteo e alle previsioni per oggi. Il cielo è coperto sulla regione, queste le temperature registrate alle 7. A Trieste ci sono 7,5 gradi, il vento soffia a 40 km orari da est-nord-est, bora, con raffiche che nella notte hanno raggiunto i 75 km orari. A Gorizia 6,5 gradi, a Udine 7 gradi, a Pordenone 6, a Tolmezzo 6,5 gradi, a Forni di Sopra 0,5 gradi sotto lo zero, a Tarvisio -1 grado, a Sappada -3, a Piancavallo -2 gradi, sul Monte Lussari -8 gradi, sul Monte Zoncolan -7, sulla costa a Lignano è grado, 9,5 gradi, e queste le previsioni invece. Cielo coperto e temperature in diminuzione sulla costa, soffierà bora moderata, possibili deboli precipitazioni sparse, quota neve sui 700-800 di notte e mattina, in calo a 300 metri la sera, possibilità di ghiaccio al suolo sull'area montana, vento moderato e freddo da nord in quota. Le temperature minime si avranno a tarda sera, poi nella notte verso lunedì la temperatura scenderà rapidamente e in modo marcato, specie sui monti. Apriamo dunque con la cronaca. Come avete sentito nei titoli, un uomo, probabilmente uno straniero ma senza documenti addosso, ha perso la vita nella serata di ieri dopo essere stato investito da un treno regionale lungo la linea ferroviaria all'altezza di Campoformido, nei pressi di un passaggio a livello. Il convoglio con a bordo una quarantina di passeggeri proveniva da Venezia ed era diretto a Udine. Le cause dell'investimento sono in corso d'accertamento. Sospeso il traffico ferroviario lungo la linea Udine-Venezia. Giunti sul luogo dell'incidente anche personale di Rete Ferroviaria Italiana, agenti delle forze dell'ordine e vigili del fuoco. Il treno Intercity notte delle 19:50 da Trieste Centrale a Roma Termini è stato deviato sul percorso alternativo tra Trieste e Venezia via Portogruaro e non ha fermato quindi a Gorizia Centrale, Udine, Pordenone, Sacile, Conegliano e Treviso Centrale, i cui passeggeri in partenza hanno potuto utilizzare il servizio con bus sostitutivo fino a Venezia Mestre. Ancora cronaca con le indagini della Procura di Bruxelles su Luca Visentini, segretario della Confederazione Internazionale dei Sindacati. Friulano di origine e triestino di adozione, è coinvolto con altre persone nell'indagine su presunti episodi di corruzione per influenzare le decisioni del Parlamento europeo. È stato interrogato a lungo dal giudice federale di Bruxelles Luca Visentini, udinese, con studi di filosofia all'Università di Trieste e dallo scorso 21 novembre segretario generale della Confederazione Internazionale dei Sindacati, è coinvolto nell'inchiesta della Procura federale belga su presunte mazzette per influenzare le decisioni del Parlamento europeo sul Qatar, dove si sta disputando il Mondiale di calcio. Nelle prossime ore il giudice, dopo gli interrogatori, potrebbe firmare ulteriori provvedimenti. Secondo gli inquirenti, il paese del Golfo sperava di travalicare la normale attività di lobbying versando ingenti somme di denaro e offrendo regali a persone con posizioni politiche o strategiche nell'Assemblea di Strasburgo. Oltre a Visentini sono coinvolti l'ex europarlamentare lombardo Antonio Panzeri, ora a capo di una ONG che si occupa di tutela dei diritti umani, Eva Kaili, vicepresidente del Parlamento europeo, e altri due assistenti parlamentari. Luca Visentini è un sindacalista stimato, è stato segretario della Confederazione europea e ha alle spalle una carriera brillante come dirigente della UIL in Friuli Venezia Giulia. La notizia del suo coinvolgimento ha destato scalpore. Lucia Basso, TGR Friuli Venezia Giulia. Ancora cronaca, formalizzato a Trieste l'arresto di Susana Stamenkovic, 54 anni, venerdì sera nell'abitazione della coppia al numero 28 di Via Battera, nel rione di Ponziana. La donna ha colpito al collo con un coltello da cucina il marito, Dragan Stamenkovic, 60 anni. L'episodio sarebbe accaduto al culmine di una lite, anche se diversi aspetti vanno ancora chiariti. L'arma è stata ritrovata già in strada, a poca distanza dal portone di casa. L'uomo, sanguinante, era sceso per chiedere aiuto. È stato un vicino ad allertare i soccorsi. Quando è arrivata l'ambulanza del 118, il ferito era in stato confusionale. Avrebbe raccontato di essere stato colpito mentre dormiva. Ora è ricoverato all'ospedale di Cartinara in condizioni non gravi. La Protezione Civile regionale ha celebrato ieri a Udine la giornata del volontario. In regione a prestare servizio per la Protezione Civile sono in 10.000, un'organizzazione indicata più volte come un modello nazionale. Donne e uomini comuni che sacrificano i loro affetti familiari e il loro tempo libero per il prossimo sono i volontari di Protezione Civile, oltre 10.000 in regione, con diverse specialità. In 1.200 in sala alla fiera di Martignacco con mezzi per la 22esima giornata del volontario, che fa del Friuli Venezia Giulia un esempio apprezzato in tutto il mondo. Sindaci, rappresentanti delle forze dell'ordine e del governo centrale e regionale hanno voluto tributare il loro ringraziamento alle donne e agli uomini volontari di Protezione Civile, da sempre in prima linea in tutte le emergenze. Leonardo Meneghin, volontario di Protezione Civile. Lo spinge o la voglia di fare o anche magari un problema che ha colpito, se non casa sua, anche dintorni o parenti o amici, familiari. È capitato a molte persone, me compreso, è capitato durante l'emergenza del Carso, che fuori da casa mia, io abito a Villesse, piovevano le ceneri dell'incendio che ha colpito questa zona del Friuli. Gianni Pantarotto, volontario di Protezione Civile. Lo spirito di collettività, di stare con la gente e l'amore per il proprio territorio. Se hai passione non rinunci a niente, anzi ti spinge ancora di più ad entrare. Martignacco, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. Il Friuli Venezia Giulia è una delle regioni più colpite dall'influenza australiana, che quest'anno si presenta con sintomi particolarmente forti. Il picco è previsto molto in anticipo rispetto al solito, addirittura prima di Natale. Da qui l'invito dei medici a vaccinarsi. Vaccinarsi e al più presto, non solo contro il Covid, perché no, quella di quest'anno non è una banale influenza stagionale. L'australiana, così è stata denominata, ha messo capo finora oltre 3 milioni e mezzo di italiani, quasi 950.000 nella sola settimana a cavallo tra fine novembre e inizio dicembre. E gli esperti prevedono che alla fine della stagione fredda i contagiati potrebbero arrivare a 10 milioni, la più forte ondata di virus influenzale da 15 anni a questa parte. I sintomi più diffusi sono febbre molto alta, problemi all'apparato respiratorio e talvolta anche gastroenterite. Proprio il Friuli Venezia Giulia è tra le regioni più colpite a livello nazionale. Su una scala di 5 livelli di allerta siamo al quarto, con un'incidenza di 17,36 influenzati ogni 1.000 assistiti, sottolinea la FIMG, il sindacato dei medici di medicina generale più diffuso in regione, contro una media italiana di 16 ogni 1.000 assistiti. Occorre che la popolazione, specie quella più fragile e anziana, si sottoponga quanto prima al vaccino anti-influenzale, ricorda il segretario regionale della FIMG, Fernando Agrusti, anche perché il Covid, per quanto sotto controllo, non è certo scomparso e occorre evitare che il sistema sanitario, ospedaliero e territoriale torni a intasarsi come più volte accaduto da quando è scoppiata la pandemia di coronavirus. E insieme al vaccino, ricorda Agrusti, ci sono altre forme di prevenzione, la mascherina e l'igienizzazione frequente delle mani. Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Dopo anni di pesanti tagli al personale, l'INPS si prepara a assumere 100 persone in regione. L'altra novità è che a Trieste l'istituto abbandonerà la storica sede di via Sant'Anastasio. Nel servizio il direttore Paolo Sardi, prossimo a lasciare la regione, traccia un bilancio di questi anni di pandemia. Una regione con poco reddito di cittadinanza ma moltissime pensioni e indennità di cassa integrazione. Questo è il Friuli Venezia Giulia nel bilancio del direttore INPS uscente Paolo Sardi al termine di un mandato triennale davvero difficile. due mesi prima dell'inizio della pandemia, quindi ho trovato una realtà che aveva, come molte realtà, qualche difficoltà, ma comunque riusciva a garantire un buon servizio. Poi improvvisamente è capitato uno tsunami. Voi tenete presente, ad esempio, sulla sede di Trieste avevamo una persona che in maniera completa si occupava di prestazione di cassa integrazione, questo lavoro è aumentato di 42 volte. Quindi noi abbiamo dovuto cambiare completamente la nostra organizzazione e i nostri obiettivi, coinvolgendo anche la direzione regionale. Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. La donna imprenditrice del vino è al centro dei lavori del tradizionale premio Noè, che si conclude oggi a Gradisca. Edizione autunnale per il Gran Premio Noè, diretto dal giornalista Stefano Cosma. Prima targa di merito a Marco Primosic e alla figlia Greta per i traguardi qualitativi della loro azienda agricola. Riconoscimento all'enologa Giramondo Marinka Polencic e alla grafica Emanuela Serato per la sua ricerca nel design e nella comunicazione di settore. Statuetta per Walter Filipputti, scrittore, docente ed enomanager, da sempre fautore delle sinergie di marketing. L'unione fa la forza, non è una banalità. Ciò non significa bloccare la personalità o la personalizzazione di un'azienda, anzi, significa aiutarla, perché i problemi, poi discutendoli, si affrontano con molta più velocità e determinazione. Premio all'Associazione Città del Vino, coordinata da Tiziano Venturini, e a Igor Gabrovez, sindaco di Duino Aurisina, città italiana del vino 2022. Ovazione per le donne del vino del Friuli Venezia Giulia, produttrici, ristoratrici, sommelier ed enologhe. La presidente della delegazione del Friuli Venezia Giulia, Maria Cristina Cigolotti Kristalnij. La particolarità delle donne è quella di essere multitasking, di occuparsi di tutto. Una donna in più ci mette la sua sensibilità e la sua attenzione ai particolari. Gradisca, Maurizio Mervar, TGR Friuli Venezia Giulia. Siamo allo sport. Calcio, sconfitta per 3-1 per l'Udinese nella prima amichevole internazionale alla Dacia Arena contro il West Ham. Buon test per i friulani in vista della ripresa del campionato fissata il 4 gennaio. Aprono i bianconeri al 12° con Pereira, la cui conclusione di destro trafigge Fabianski. Prima della pausa però gli inglesi trovano il pari con Benrahma, bravo ad avventarsi su una respinta di Silvestri. Nella ripresa, girandola di cambi per entrambe le formazioni, è il West Ham a trovare altre due reti. Al 69° Lanzini con un forte destro da oltre 20 metri trafigge Padelli. Infine, allo scadere, arriva il tris inglese di Antonio. In Serie C, grande attesa per il confronto d'alta classifica allo stadio Tegel di Lignano tra il Pordenone e la capolista Vicenza, con inizio alle 14:30. In precedenza, alle 12, la Triestina giocherà in trasferta, ultima in classifica, appunto, la Triestina a Seregno sul campo del San Giuliano. Basket, in Serie A1, impegno casalingo per la pallacanestro di Trieste contro Brindisi, palla a 2 alle 20:30. In Serie A2, l'APU All Wild West Udine affronta la pallacanestro Forlì alle 18 e alla stessa ora la Gesteco Cividale sarà di scena sul parquet di San Severo. In A2 femminile, successo casalingo per Adelser Udine su Treviso per 71-52 e per la futurosa Trieste sul parquet del Ponzano per 51-55. Pallanuoto, Trieste conquista 3 punti preziosi a Palermo nella piscina della Telimar. Gli alabardati vincono di misura 11-10 con un grande recupero finale. Il successo vale il 3° posto in classifica. Mercoledì 14 alla Bianchi l'appuntamento con l'Eurocup. Pallavolo, sconfitta interna per la Tinet Prata Pordenone contro la Castellana Grotte, che si impone per 3-7-2 in un match valido come anticipo della 12ª giornata d'andata della Serie A2. Questi i parziali 25-23, 22-25, 20-25, 25-18 e 15-13. Al Verdi di Trieste porteranno in scena grandi studiosi per raccontare le personalità del passato che hanno segnato una rottura rispetto ai propri tempi. Il primo appuntamento alle 11 con il professor Vito Mancuso, che parlerà di Gesù ai nostri microfoni. Mancuso ha spiegato in che senso possa essere considerato un ribelle. Io penso che tutti i ribelli siano un po' ribelli e un po' no. La ribellione vera, quando non è capriccio, è obbedienza a una istanza e a valori diversi rispetto a quelli consolidati. Io penso che questo valga per tutti i veri ribelli, nel senso autentico del termine, che non si ribellano perché sono capricciosi, ma perché sentono che devono obbedire a dei valori più importanti di quelli, appunto, come dicevo, ufficiali o consolidati. Gesù, infatti, si ribella di sicuro due cose. Una è la legge romana, tant'è che viene crocifisso come sedizioso. Questa è la condanna che la pena della crocifissione suppone. E poi l'altra cosa che si ribella è la religione giudaica così come era praticata a quel tempo, tant'è che da lui nasce una nuova religione. Poi naturalmente gli studiosi si dividono al proprio interno tra coloro che dicono che Gesù fu più ribelle alla legge romana e per nulla alla religione giudaica, coloro che dicono che più alla religione giudaica e per nulla all'impero romano, il quale diceva che bisognava pagare il tributo, però rimane il fatto che una ribellione è all'origine del fenomeno Gesù e di quello che storicamente ne consegue. Quindi c'è un punto di rottura. È inevitabile, certo, la rottura è la croce, è la prova che qualcosa ha rotto, tant'è che appunto il potere costituito lo uccide come sedizioso e la rottura è la nascita di una nuova religione, questo è indubbio. Alle 8.45 minuti e 30 secondi cominciamo la rassegna stampa di questa domenica dalla prima pagina del Piccolo Edizione di Trieste. Hotel a Capodanno verso il Pienone, ma pesano i rincari, tante le prenotazioni per festeggiare l'arrivo del 2023. A gennaio molti chiuderanno per evitare le spese. Lo scandalo all'Europarlamento, quelle dichiarazioni di Visentini sul Qatar, storia di successo, riportate da vari media internazionali e le parole pronunciate dopo una visita effettuata in ottobre in vista della competizione calcistica mondiale. Oggi il giudice decide. L'IMS lascerà ad aprile via Sant'Anastasio, trasloco in via Ghiberti, il direttore regionale Sardi dice il trasferimento doveva venire con l'anno nuovo, impossibile per una serie di inconvenienti. Il fiuto di Marco in vetta al mondo fra aromi e profumi, il 35enne Marco Bazzara ha affinato le sue capacità olfattive nei laboratori dell'azienda di famiglia, leader nel settore del caffè. La Margherita Hack di Pievani, social senza social. Martedì al Teatro Miela il filosofo ricorderà la figura dell'astrofisica triestina in un dialogo con la scienziata Francesca Matteucci. Siamo al Messaggero Veneto, nell'edizione di Udine e di Pordenone apre sulla proposta del vicepresidente della regione Riccardi semplificare le norme e affidare la gestione dei cantieri del PNRR ai presidenti delle regioni. Il modello è quello del terremoto del 76 con le deleghe appunto alla regione. Questa esperienza credo vada riaffermata con forza, ha ricordato Riccardi. Stangata sui tassi di interesse a centropagina nell'edizione di Udine. Uno studio della CGA di Mestre ha calcolato che l'aumento dei tassi sui prestiti porterà un aggravio di 346 milioni di euro per le imprese della regione. Spazio anche al caso della comunità di Museis a Cercivento, la cui attività è a rischio a causa di un certificato mancante. A Pordenone invece la quarta dose si fa all'oratorio, con il picco di prenotazioni al lab vaccinale, all'oratorio della chiesa di Beato Dorico, per immunizzarsi da coronavirus e influenza. Tra le notizie curiose ci spostiamo qualche chilometro fuori regione per raccontare la storia delle suore di clausura di Vittorio Veneto costrette a produrre prosecco per pagare le bollette in crescita. Il vino è stato benedetto dal vescovo di Sacile, che ha competenza anche sul comune Veneto. Il Piccolo Edizione di Gorizia e Monfalcone apre con i parcheggi a pagamento a Gorizia più parcometri con i nuovi gestori delle zone blu. Dopo 7 proroghe deciso l'affidamento provvisorio alla Gestopark, i 5 ausiliari verranno riassorbiti. Infortuni e pochi spazi, Porto Rosega a rischio sciopero, il tema della carenza di spazi da adibire a spogliatoi e l'attesa per il distacco dopo il doppio infortunio agita il porto. A grado sui Reors resta valido l'accordo già esistente con la sovrintendenza, scongiurato l'obbligo di nuove richieste autorizzatorie. Il comitato Noi Cittadini chiede più vivibilità in centro storico. Per il Gazzettino, titolo d'apertura in entrambe le edizioni di Udine e Pordenone, Giro, l'ombra della Corte dei Conti. Le associazioni ambientaliste denunciano i lavori di asfaltatura fatti lungo il tratto di strada che va fino al santuario dell'Ussari. Intervento fatto solo per il Giro d'Italia, distruggendo uno degli angoli più belli della zona, dicono, con il pretesto di mettere in sicurezza l'area. Indagherà la Corte dei Conti. Nell'edizione di Udine la fotonotizia è dedicata alla sconfitta dell'Udinese contro il West Ham, dove pesano le assenze. Spazio anche al presepe di sabbia di Lignano, che in 2 giorni e con un meteo avverso ha avuto 5.000 visite. L'edizione di Pordenone sceglie come fotonotizia invece il frontale di ieri avvenuto a Castions, con 2 persone rimaste gravemente ferite. Sul fronte influenza, da 15 anni non si vedevano tanti casi in regione. Preoccupazioni per i ricoveri in crescita e il picco è atteso a Natale. Facciamoli diventare grandi con questo appello che torna a Telethon, la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi per sostenere la ricerca sulle malattie genetiche rare. Anche nelle piazze del Friuli Venezia Giulia saranno distribuiti oggi cuori di cioccolato da parte dei volontari di Fondazione Telethon insieme a quelli di altre realtà. In contemporanea Va in onda sulle reti Rai la maratona televisiva iniziata sabato con Uno Mattino in Famiglia, che prosegue oggi per concludersi in serata con Natale e quale speciale Teleton, interamente dedicata al sostegno e fondazione Teleton. Musica stasera a Pordenone, il concerto della montagna con il violinista siberiano Vadim Repin, che suonerà con l'orchestra Beethoven nell'unica data italiana della stagione. Appuntamento alle 20:30 al Verdi di Pordenone. Proseguono le repliche dello spettacolo di marionette Come and Go Varietà con i piccoli di Podrecca per la regia di Barbara Della Polla alle 11:30 alla sala Primo Rovis della Società Ginnastica Triestina. Oggi seconda apertura straordinaria d'autunno del Giardino Botanico Carsiana di Sgonico. Alle 10:18 i visitatori potranno passeggiare nel giallo delle foglie degli alberi. Per i programmi radiofonici alle 9:15 nel cinquantenario della scomparsa dell'artista triestina Miela Reina, seconda puntata dell'originale radiofonico Miela col sorriso d'innocenza di Gianni Gori. Per i programmi televisivi alle 9:15 su Rai 3 il numero di dicembre di Alpe Adria Magazine, il documentario Il presepe di Sutrio in Vaticano di Antonia Pillosio e Sempre Giovani a cura della Cassa di Risparmio di Gorizia. E alle 8:50 minuti si chiude qui questa prima edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia, che è stata redatta e condotta da Dario Ronzoni e Giorgio Bearz con la collaborazione tecnica di Paolo Cassano. Ha collaborato in redazione Daniela Sossi. Ora la rubrica Vita nei Campi, noi ci risentiamo alle 12:15. Grazie dell'attenzione e buona domenica. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.